Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati. Cari ascoltatori, a voi tutti un caro saluto per questo nostro appuntamento mensile. E fin dall'inizio di questa nostra conversazione chiediamo allo Spirito Santo di illuminare e scaldare i nostri cuori perché diventino spazio che accoglie la parola di Dio. E chiediamo anche a Maria di tenerci per mano perché la nostra vita sia come la sua, una vita tutta dedicata al dono di sé, al dono di Cristo, al dono della parola di Dio. Ecco, stiamo facendo un percorso sugli Atti degli Apostoli, leggendo in forma continua il testo e nel nostro cammino siamo arrivati al capitolo 16. Come dicevamo la volta scorsa, il capitolo 16 è un punto di snodo nella narrazione perché viene fondata la prima comunità cristiana d'Europa, la comunità cristiana di Filippi. E abbiamo notato la volta scorsa come in questo momento, in questa svolta della storia delle origini, si inserisce anche una figura come quella della di Luca, cioè il narratore del Vangelo e degli Atti degli Apostoli pensati come un'unica opera. Ecco, speriamo che questa nostra conversazione possa in qualche modo aiutare anche a prepararci alla festa di domani che è dedicata a questo grande evangelista. Per quanti di voi hanno la possibilità di farlo, invito a prendere un'edizione del Nuovo Testamento, o meglio, una Bibbia, aprendola al capitolo 16 degli Atti degli Apostoli, leggendo insieme dal versetto 16 fino alla fine del capitolo. Ecco, in questa trasmissione di questa serata noi vedremo come l'annuncio del Vangelo nel mondo pagano suscita subito delle problematiche e delle sfide che si giocano su due concetti, quello della schiavitù e quello della libertà. L'obiettivo del Vangelo, lo noteremo a più riprese, è un obiettivo che punta alla libertà ed è destinato alla libertà di coloro che lo vivono. Allora, cominciamo con la lettura del testo. Lo suddividiamo in almeno quattro diversi momenti in cui noteremo come l'annuncio di Paolo nella prima comunità cristiana d'Europa comincia ad affrontare le prime grandi sfide. Cominciamo a leggere la prima parte, vale a dire dal versetto 16 al versetto 18. Mentre ci recavamo al luogo della preghiera, ci venne incontro una schiava che aveva uno spirito divinatorio, la quale procurava un notevole guadagno ai suoi padroni pronunciando oracoli. Costei si mise a seguire Paolo e noi e ci gridava dietro: «Questi uomini sono i servi del Dio Altissimo che vi annunciano la via della salvezza». La cosa si ripeté per molti giorni. Paolo, infine, seccatosi, rivoltosi allo Spirito, disse: «Ti comando nel nome di Gesù Cristo di uscire da lei». E in quello stesso istante lo Spirito se ne andò. Ecco, siamo all'indomani della fondazione della Chiesa di Filippi. Quindi Paolo sosta nella casa di Lidia e in questo periodo in cui lui rimane nella città cerca di formare la comunità e nello stesso tempo di incontrare altri fratelli e sorelle che possano unirsi al cammino cristiano. Il luogo principale da cui questo può verificarsi è il contesto della preghiera. Sappiamo che dai versetti precedenti che è nel contesto della preghiera che lo Spirito ha aperto il cuore di Lidia per accogliere le parole di Paolo. Quindi Paolo vuole continuare a rimanere in questo contesto di preghiera perché altre persone possano essere raggiunte dall'azione dello Spirito. E mentre ci recavamo al luogo di preghiera, ci venne incontro una schiava che aveva uno spirito divinatorio. Il testo greco parla di una schiava che aveva uno spirito pitone, alla lettera. Il pitone era il serpente che faceva da guardia all'oracolo di Delfi, e ai tempi di Luca dire che uno aveva lo spirito pitone significa che era un ventriloquo, cioè aveva uno spirito, era considerata come una persona posseduta da uno spirito maligno che parlava attraverso le viscere, attraverso le sue viscere. Quindi nel momento, è curioso, Paolo e i suoi discepoli, tra cui Luca, si stanno recando alla preghiera ed è in questo contesto che lo spirito nemico si affianca a loro. Spesse volte noi, come dire, ci meravigliamo del fatto che mentre siamo in preghiera magari siamo disturbati o da un pensiero o dall'altro o da quell'altro. E questa cosa, ecco, il testo ci dice, guardate che è una cosa normale, laddove l'uomo cerca il rapporto con Dio, lo spirito nemico cerca di distoglierlo. E cerca di distoglierlo, in questo caso, non con un'azione di per sé negativa. Questa schiava non fa altro che pronunciare una cosa vera, questi uomini sono i servi del Dio Altissimo che vi annunciano la via della salvezza. Più vero di così? Il problema qual è? È che provenendo da una donna che è affetta da uno spirito impuro, questo annuncio rischia in qualche modo di forzare l'adesione ai fedeli, quindi di non rendere libera l'adesione ai fedeli come Paolo vuole. Ed è proprio per questo che Paolo porta tanta pazienza, però dopo molti giorni che questa donna gli sta dietro e continua a ripetere lo stesso annuncio, Paolo perde la pazienza e, rivoltosi allo Spirito, dice: ti comando nel nome di Gesù Cristo di uscire da lei. Ora, noi in genere commentiamo in questo modo: Paolo perde la pazienza, si arrabbia, allontana lo Spirito, però non è solo una perdita di pazienza. Paolo è l'apostolo del risorto e insieme al risorto, nel nome del risorto, restituisce la libertà a questa donna che è vittima di una triplice schiavitù. Prima di tutto è schiava dello spirito nemico, che è quello che le fa dire ciò che di cui magari nemmeno lei era cosciente, quindi schiava dello spirito nemico. È schiava dei suoi padroni, perché il testo lo dice, procurava un notevole guadagno ai suoi padroni pronunciando oracoli. Quindi quella che era una possessione, questi la sfruttano per renderla schiava di loro. E poi schiava del sistema sociale, che permetteva ad alcune persone di averne altre, considerandoli degli oggetti in loro possesso, quindi a dei signori di possedere degli schiavi, e di usarli pur di trarre profitto. Quello che Paolo fa è liberare questa donna da una triplice schiavitù: dallo spirito nemico, dai padroni, dal sistema sociale. Quindi il primo annuncio che viene portato nel contesto della comunità di Filippi non è solo l'annuncio del Cristo che muore e risorge ed è vivo all'interno della storia, ma è un annuncio che testimonia l'azione liberante del Vangelo. L'uomo e la donna sono restituiti nella loro dignità di uomini e donne liberi, figli liberi, davanti al volto del Padre. E questo diventa una grande provocazione per la comunità cristiana. La comunità cristiana è una comunità che sempre, lungo tutta la storia, deve lottare per la libertà. Per la libertà dell'uomo, per la libertà dei diritti umani. Paolo stesso, nella lettera ai Galati, nella lettera ai Romani, nella lettera ai Filippesi, torna più volte su questo concetto: Cristo ci ha liberati perché restassimo liberi. Pensate, oggi riflettevo su una ricerca che era stata presentata in sintesi dal quotidiano Avvenire, no? Il maggio scorso, dove in seguito ad una ricerca sulle schiavitù contemporanee erano emersi dei dati allarmanti. Attualmente, secondo questa ricerca, 45,8 milioni di persone sono oggetto di schiavitù. Persone che vivono in una condizione dove sono obbligate a lavorare senza essere pagate, vendute per essere sfruttate sessualmente, nate in situazione di servitù, e tra queste ci sono dei bambini che sono costretti a combattere sui campi di battaglia. Pensate che nel 2014 il numero di schiavi nel mondo era di 35 milioni, nel 2016 l'indice si è alzato di ben 10 milioni, 45,8 milioni di schiavi moderni. E nella classifica delle nazioni dove il numero di schiavi è più alto, troviamo al primo posto la Corea del Nord, al secondo posto la Cina, terzo posto il Pakistan, quarto posto l'India. L'India, pur essendo al quarto posto, è quella dove c'è il maggior numero di schiavi, 18,3 milioni. E nel continente europeo, purtroppo, l'Italia occupa il terzo posto dopo la Turchia e la Polonia. E il terzo posto della nostra nazione non è sicuramente qualcosa che ci fa dormire sonni tranquilli. Pensate che rispetto alla Francia il numero di schiavi in Italia, su tutti questi fronti che abbiamo detto prima, obbligati a lavorare senza essere pagati, venduti per essere sfruttati sessualmente, situazioni di schiavitù nei lavori stagionali, o situazioni di schiavitù che coinvolgono minori, il numero di queste forme di schiavi in Italia è 10 volte superiore a quello stimato in Francia. Grazie a Dio, ci sono anche molti segnali positivi di persone suscitate dallo spirito che lavorano per liberare persone del genere da tutte queste condizioni. E una di queste è Suor Eugenia Bonetti, è una sorella che si batte notevolmente contro tutte le forme di tratta presenti nel mondo contemporaneo. Quindi vedete come la prima azione che si svolge nella prima comunità cristiana fondata in Europa, la comunità di Filippi, è qualcosa che resta di un'attualità immensa. Ti comando nel nome di Gesù Cristo di uscire da lei, e in quello stesso istante lo spirito se ne andò. Paolo si dà da fare perché una sola persona venga liberata. Già questa attenzione alla singola persona ci dice l'atteggiamento, cioè dove porta il Vangelo. Il Vangelo dà sì delle indicazioni di insieme che coinvolgono tutta l'umanità, ma anche una grande attenzione alle singole persone, al singolo, alla persona. Allora, lasciamo un breve stacco musicale adesso per poter rileggere, in modo che ciascuno possa rileggere questi versetti, dal 16 al 18, prima di vedere cosa succede subito dopo nella comunità di Filippi. Allora riprendiamo la nostra lettura con la seconda parte del brano, vale a dire dopo che Paolo ha compiuto questa azione liberante nei confronti della schiava che aveva uno spirito divinatorio, cosa succede a Filippi? Leggiamo i versetti dal 19 al 24. I suoi padroni, vedendo che se ne andava per loro la speranza di fare affari, presero Paolo e Sila e li trascinarono in piazza davanti alle autorità. Li presentarono i magistrati con questa accusa: questi uomini mettono a soqquadro la nostra città, sono giudei e predicano usanze che noi, romani, non possiamo né accettare né praticare. Allora la folla insorse insieme contro di loro e i magistrati, fatti strappare loro di dosso i vestiti, comandarono che fossero bastonati. Dopo averli caricati di percosse, li gettarono nella prigione, ordinando al carceriere di custodirli con grande cautela. Egli, a seguito di tale ordine, li gettò nella parte più interna della prigione e assicurò i loro piedi ai ceppi. Cosa notiamo? Notiamo che coloro che si sono fatti portavoci di un messaggio di libertà e che hanno portato la libertà alla schiava, finiscono loro stessi prigionieri, finiscono loro stessi in prigione. Quindi c'è chi fa soldi sulle spalle degli altri con l'obiettivo di renderli schiavi e c'è chi paga un prezzo alto per la libertà di una sola persona. Sembrano due situazioni opposte e sembra che chi agisce per il male abbia la parte vincente. Notiamo anche un'altra cosa, che qui non era solo la schiava ad essere in qualche modo prigioniera dei suoi padroni. Ci sono ben altre persone che sono prigioniere e le persone che sono prigioniere qui sono le persone che compongono la folla, perché praticamente basta che i magistrati dicano qualcosa, che i padroni dicano qualcosa e la folla insorge insieme contro Paolo e Sila, fidandosi di quella parola che viene da persone in autorità. E allora qua Paolo e Luca, attraverso la sua narrazione, invita subito a fare una riflessione, cioè mantenere, essere, custodire la dignità di uomini e donne liberi ci deve portare sempre a ragionare, pensare con la nostra testa, fare discernimento con la nostra testa alla luce di Dio, per verificare che le cose che ci vengono dette rispondano a verità oppure no, per verificare le intenzioni che guidano a volte alcune scelte. Qui i padroni, cioè quelli che parlano, hanno solo un obiettivo, quello di fare affari. Vedendo che se ne andava la loro speranza di fare affari, presero Paolo e Sila e li trascinano davanti alle autorità. E ci accorgiamo che oltre alla folla, schiavi saranno anche i magistrati, perché si fidano di quello che queste persone danarose alla fine dicono loro. E probabilmente per non perdere dei benefici, non perdere l'appoggio di queste persone danarose, non perdere i loro soldi, alla fine fanno quello che loro dicono, rischiando grosso, come vedremo alla fine del brano. E allora cosa succede? Succede che Paolo e Sila vengono in qualche modo resi non solo prigionieri, ma soffocati nella loro persona, attraverso una serie di atti. Qui se ne menzionano sei, tutti gravi uno dopo l'altro. Il primo gesto è quello di strappare loro di dosso i vestiti. Strappare di dosso i vestiti nella mentalità del primo secolo è togliere la dignità alle persone. Il vestito diceva la dignità, il rango sociale, il profilo di una persona. Togliere di dosso il vestito è annullare la sua identità, non riconoscerlo per quello che è. Secondo, comandano che fossero bastonati. Non era la flagellazione, ma non per questo era meno dolorosa. La punizione del bastone era in genere riservata a persone che compivano dei reati, certo non della gravità più assoluta, però dei reati. E in questa situazione non sembra che Paolo e Sila abbiano commesso dei reati. Terza, vengono messi in prigione, cioè vengono impediti di esercitare le funzioni di persone libere. Oltre ad essere messi in prigione, vengono piantonati, perché vengono custoditi con grande cautela, vengono messi nella parte più interna della prigione e addirittura i loro piedi sono assicurati con i ceppi. Un grande sistema che ha come obiettivo quello di bloccare queste persone. Sembra di leggere sullo sfondo una situazione affine a quella della passione di Gesù, Sicuramente il narratore, l'evangelista Luca, che vede sempre nell'Apostolo colui che rivive il mistero pasquale di Cristo, che ha patito, che è morto e risorto, in qualche modo cerca di descrivere la situazione sulla falsa riga del racconto della passione. Ecco, in tutto questo Paolo e Sila notiamo che non si ribellano, nemmeno quando viene data un'interpretazione totalmente errata del loro annuncio. Questi uomini mettono a soqquadro la nostra città, sono giudei e predicano usanze che noi romani non possiamo né accettare né predicare né praticare. L'unica usanza che hanno messo in atto è quello di liberare una persona dallo sfruttamento di altri, dallo sfruttamento dello spirito nemico, dallo sfruttamento del sistema sociale, dallo sfruttamento dei padroni. Ed è questo di cui vengono accusati. Ora, di fronte a questo grande sistema di chiusura, di bloccaggio di queste persone, cosa succede a Paolo e Sila? Come reagiscono i due grandi apostoli? Verrebbe anche da chiedersi, e Luca dove è finito? Per Luca questa è, si può dire, la prima grande lezione. Dopo la lezione di Filippi, prima comunità cristiana che nasce in un ambiente completamente pagano, Luca si trova davanti a quello che succede ai testimoni di Gesù, e questo resterà talmente impresso dentro di lui che diventerà uno degli elementi principali anche del suo racconto, oltre alla misericordia con cui Paolo e Sila si comportano. Ecco, il resto del racconto è narrato nei versetti dal 25 al 34, che ascoltiamo subito. Verso mezzanotte Paolo e Sila stavano pregando e cantando inni a Dio, mentre gli altri prigionieri li ascoltavano. All'improvviso vi fu un terremoto così violento da scuotere le fondamenta del carcere. Di colpo si aprirono tutte le porte e si sciolsero le catene di tutti i carcerati. Il carceriere, svegliatosi e viste aperte le porte della prigione, sfoderata la spada, stava per uccidersi, pensando che i prigionieri fossero fuggiti. Ma Paolo gli gridò con forza: «Non farti del male, siamo tutti qui!» Allora domandò un lume, balzò dentro e tutto tremante cadde ai piedi di Paolo e di Sila. Poi li condusse fuori e chiese: «Signore, che cosa devo fare per salvarmi?» Gli risposero: «Credi nel Signore Gesù e sarai salvato tu e la tua famiglia». Annunciarono così la parola del Signore a lui e a tutti quelli della sua famiglia. E a quell'ora della notte li prese con sé, lavò loro le piaghe e subito fu battezzato, lui e tutti i suoi. Poi li condusse a casa sua, apparecchiò loro la tavola e si rallegrò con tutta la sua famiglia perché aveva creduto in Dio. Allora, abbiamo detto che il brano iniziava con l'immagine di una donna, l'indovina, la prima forma di schiavitù, l'indovina. Poi siamo andati avanti e abbiamo notato che in fondo era schiava anche la folla, di quello che dicevano i magistrati, ma erano schiavi anche i magistrati, schiavi di tutti gli interessi che li legavano a quei padroni danarosi. Ora notiamo che ci sono altre persone prigioniere che devono essere liberate. Le persone prigioniere sono coloro che si trovano in carcere, in questo caso, ma anche lo stesso carceriere, che è vittima di un sistema legislativo che mette a dura prova la vita di un carceriere nel momento in cui questo lascia sfuggire anche uno solo dei suoi prigionieri. Notiamo Paolo e Sila come reagiscono di fronte alle umiliazioni, ne abbiamo viste sei di umiliazioni, a cui sono posti. Il testo dice: pregando e cantando inni a Dio. La pace caratterizza Paolo e Sila in un momento di grande umiliazione, e questa pace diventa annuncio. Gli altri prigionieri li ascoltavano. Quindi la loro preghiera, il loro canto, che dicono il totale affidamento nelle mani di quel Dio che li ha inviati, diventano annuncio anche per gli altri prigionieri. E questo canto e questa preghiera hanno una forza estrema. si traducono presto in un terremoto di fronte al quale tutti i sistemi di sicurezza messi in atto dai magistrati non hanno nessuna efficacia. Di colpo, dice il testo, si aprirono tutte le porte e si sciolsero le catene di tutti i carcerati. E qui viene spontaneo chiedersi, ma come mai tutte le porte e tutti i carcerati? Bastava che lo spirito aprisse le porte dove c'erano Paolo e Sila, appunto. In fondo gli interessava quei due. Invece no. L'annuncio del Vangelo è un annuncio di libertà per tutte le persone. La dignità dell'essere libero va a toccare tutte le persone. Quindi si aprono le porte e si sciolgono le catene di tutti i carcerati. Notiamo però fin dove arriva questa libertà. La libertà è tale che nel momento in cui il carceriere si rende conto che oramai sicuramente tutti, lui pensa, sicuramente tutti sono fuggiti e quindi ed è pronto a uccidersi, perché se non si uccide lui lo faranno fuori i romani, non c'è scelta, Paolo libera anche lui dalla paura dicendo fermati, non farti del male, siamo tutti qui. La libertà che viene da Dio è una libertà che porta un grande rispetto per l'altro. Tanto vero che nessuno dei prigionieri fugge da quella prigione. E guardate che le prigioni che c'erano nel primo secolo non erano sicuramente dei luoghi dove uno passava volentieri la notte. Eppure nessun prigioniero abbandona il luogo. Paolo dice, non farti del male, siamo tutti qui. Il vero miracolo è questo. Il miracolo di una libertà che si traduce in un grande rispetto per l'altro e in un riconoscimento della propria situazione. Reazione del carceriere, domandò un lume, balzò dentro e tutto tremante cadde ai piedi di Paolo e Sila. Nel cuore della notte, dove tutto sembrava essere segnato dal buio, il buio del carcere più interno, il buio della prigionia, il buio dell'angoscia, al canto e alla preghiera sgorga questo lume. E questo piccolo lume si trasforma presto in tanti altri lumi. E tanti altri lumi dove? Nella casa stessa del carceriere. Il testo dice che di fronte a questa scena il carceriere si converte e Paolo e Sila prima gli annunciano la parola e poi apparecchiano la tavola, le due grandi mense, la mensa della parola e la mensa dell'Eucaristia. E questa grande mensa viene apparecchiata, viene imbandita non solo per il carceriere, ma per tutti quelli della sua famiglia. E la parola e l'Eucaristia, mentre diventano il nutrimento di coloro che sono assisi attorno alla tavola, diventano anche ciò che sanano le ferite. Li prese con sé, lavò loro le piaghe e subito fu battezzato lui e tutti i suoi. La parola e l'Eucaristia, vero nutrimento di libertà che sazia e sana dalle fatiche dell'annuncio. E tutti gli altri prigionieri? Tutti gli altri prigionieri restano all'interno del carcere. Tanto vero che nessuno rimprovererà il carceriere per quello che è successo. E gli stessi Paolo e Sila, dopo questa notte che è stata trasfigurata dalla forza della grazia, dalla forza della preghiera, dopo questa notte trasfigurata dalla grazia, tornano anche loro buoni buoni nella loro cella più interna. Non sappiamo se i loro piedi saranno nuovamente assicurati nei ceppi, probabilmente no, però Paolo e Sila tornano nel carcere dove erano stati inviati. Allora notiamo come la forza del Vangelo diventa una forza liberante, non solo per l'indovina, ma in questo caso è diventata una forza liberante per il carceriere, che è stato battezzato insieme a tutta la sua famiglia, e per i prigionieri che hanno ascoltato la preghiera e il canto di Paolo e Sila, e non solo si sono limitati ad ascoltare questa preghiera e questo canto, ma hanno gustato il sapore della vera libertà, che diventa riconoscimento del proprio peccato, ma anche rispetto della libertà dell'altro, tanto vero che nessuno di loro fugge. Se fosse fuggito anche uno solo di loro, il carceriere sarebbe stato messo a morte. Ma vediamo poi come questo racconto continuerà, perché la narrazione non finisce qui, c'è ancora la parte finale dove vengono liberate ancora altre persone. Lasciamo però un breve stacco musicale in modo che ciascuno di voi possa aver modo di rileggere questi versetti in modo da, come dire, ricomporre anche nel proprio cuore, grazie alla propria lettura, quanto siamo andati dicendo. E poi riprenderemo con il versetto 35. Quindi stiamo percorrendo insieme le prime vicende della prima comunità cristiana d'Europa, la comunità cristiana di Filippi, e abbiamo visto come le prime vicende hanno tutte a che fare con il discorso della libertà. L'annuncio del Vangelo è un annuncio liberante. Questo annuncio liberante ha toccato la vita di un'indovina, di una schiava che viene liberata dallo spirito maligno, lo spirito cosiddetto pitone nel primo secolo, ha liberato un carceriere, ha liberato i prigionieri, ha liberato soprattutto, almeno in parte, Paolo e Sila. Restano ancora schiavi però alcuni gruppi di persone che vedremo se sono raggiunte o meno dalla forza del Vangelo. Leggiamo ora gli ultimi versetti per vedere cosa succede.